Domenica 27 marzo al Centro Sociale e Culturale Villa Paradiso si terrà un pranzo raccolta fondi per il docufilm su Carlo Giuliani, La cattiva strada. Noi siamo qui per parlarne con Claudia Cipriani, la regista, e con il produttore Niccolò Volpati. Ciao ragazzi, benvenuti ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora ragazzi, si è parlato sfortunatamente o fortunatamente, diciamo che dipende dai punti di vista, però si è parlato molto a 20 anni di distanza di quello che è successo a Piazza Alimonda, però volevo chiedere che cosa avete deciso voi di raccontare della storia di Carlo Giuliani all'interno del docufilm La cattiva strada. Dunque, noi era un po' di tempo che avevamo in mente di dedicarci a questo lavoro. Diciamo che quando siamo andati a Genova nel 2020 per la proiezione del nostro film documentario precedente su Giuseppe Pinelli, Pino, Vita Cinetale di un Anarchico, in quell'occasione abbiamo incontrato e potuto parlare con Heidi e Elena Giuliani. Qualche giorno dopo abbiamo avuto il coraggio di dirgli che avevamo in mente di fare questo progetto. E per fortuna loro il nostro film Giuseppe Pinelli era piaciuto molto. E sebbene ovviamente questo progetto su Carlo non ricalchi quello precedente, perché è molto diverso per tutto, per soggetto, per modalità di realizzazione, però comunque una cosa hanno in comune questi due lavori, cioè noi interessava parlare della vita di Carlo soprattutto, nel senso che della sua morte, della sua uccisione se ne è parlato tanto ed è giusto anche comunque ripeterlo e parlarne ancora, però a noi interessava sapere chi è Carlo Giuliani. E quindi con Elena, la sorella, e con Heidi abbiamo proprio parlato di questa idea e diciamo che siamo stati molto contenti, perché è per la prima volta si potrà un attimo conoscere chi era Carlo, conoscerlo non solo attraverso le testimonianze di molte persone che noi abbiamo sentito, con cui abbiamo chiacchierato, che hanno conosciuto Carlo da vicino, ma anche attraverso i suoi scritti, perché Carlo amava scrivere, quindi diciamo che la sua voce ci arriverà attraverso appunto questi scritti. Sì, solamente per specificare che ovviamente non saranno interviste, il lavoro che abbiamo fatto fino adesso è quello di raccogliere tutti i racconti, le testimonianze appunto sia dei parenti che degli amici, che dei professori, che dei conoscenti, delle maestre, di veramente tante persone. È stato molto positivo perché poi si sono anche scambiate informazioni tra di loro, quindi molti hanno anche parlato, alcuni anche per la prima volta, di Carlo. E noi tutto questo materiale lo stiamo raccogliendo, lo stiamo trascrivendo, come il documentario, come diceva Claudia, Pino, Vita Accidentale di un Anarchico, sarà appunto un racconto in questo senso, quindi una sorta di voce fuori campo che ci racconta Carlo e la vita di Carlo da quando nacque nel 1978 fino a Piazza Alimonda. Avete anche deciso di, come dire, mischiare, no? Diversi generi, si passa da un film con una sceneggiatura vera e propria a un documentario, fino ad arrivare anche a un cartone animato, quindi vi volevo chiedere come mai questa scelta, appunto questo mix, ecco. A me piace da sempre mescolare i generi, quindi a parte che poi il confine tra film, film di finzione, comunque documentario, è anche sottile in alcune occasioni. Comunque, dicevo, anche in lavori precedenti miei a me piace mescolare i generi, e poi mi piace usare anche il materiale d'archivio in una maniera non didascalica, poco retorica, e quindi anche come è successo per il film Pinelli, abbiamo cercato di unire diversi linguaggi, e anche questa volta poi ovviamente ogni storia ha la sua modalità narrativa, ogni storia ha un modo in cui essere raccontata al meglio, almeno per me, cioè secondo il mio punto di vista, e quindi adesso sto cercando di capire appunto come poter mescolare le immagini, le fotografie, il materiale d'archivio, che ce n'è molto, immagini e sequenze girate ad hoc, sequenze che poi verranno cartonizzate, disegni animati, perché rispetto anche ai lavori precedenti utilizzeremo anche disegnatori in modo da avere anche un disegno animato, cioè realizzato appunto con tavole fatte apposta. E poi a me piace, per me è molto importante anche lavorare con la musica, e come diceva Niccolò, anche con le voci, nel senso che poi ci saranno anche questi voice over che racconteranno, in particolare la voce di Elena, che va un po' alla, diciamo, alla scoperta anche di Carlo, nel senso che ripercorre non solo quello che lei ha vissuto con Carlo, ma anche quello che le viene raccontato. E ragazzi, come ultima domanda vi volevo chiedere invece innanzitutto come si può partecipare al pranzo di domenica, appunto alla raccolta fondi, ma in generale come si può sostenere il vostro progetto? Per partecipare, intanto noi ringraziamo moltissimo le compagne e compagni di Villa Paradiso che ci hanno invitato e sostenuto in questo modo. Penso che si possano contattare loro per prenotarsi per partecipare al pranzo, che sarà un'occasione appunto per autofinanziare, per finanziare questo progetto. Noi anche questo progetto abbiamo lanciato un crowdfunding. Per partecipare basta andare sulla pagina di Produzioni dal Basso e scrivere La Cattiva Strada, gli compare questo progetto a cui si può vedere questo primo breve video di 3-4 minuti e poi sottoscriverlo. Per noi è fondamentale questo aspetto perché anche questa volta abbiamo scelto sia di autoprodurci che di autodistribuirci, perché vogliamo, diciamo, sia la massima libertà creativa senza imposizioni, ma anche la possibilità di poterlo distribuire, quindi far vedere dove si vuole, anche in uno spazio appunto come Villa Paradiso, quando poi speriamo quest'estate il film sarà pronto definitivamente. L'ultimissima cosa è che ringraziamo ovviamente per questo invito e anche chi vorrà partecipare, perché siamo consapevoli che la storia di Carlo Giuliani non è una storia quasi soltanto sua, è una storia che appartiene anche un po' a tanti di noi che hanno partecipato a quelle manifestazioni e quel movimento, e quindi l'occasione di confrontarsi con tante altre persone anche per capire che cosa si aspettano da un film su Carlo Giuliani e poter discutere e capire che senso ha oggi a 20 anni di distanza raccontare quella storia.